ci racconterà profusamente come mai, non contenta di essere già venuta, ritorna questa sera. Per obbligo. Ma come? Sto scherzando. E poi abbiamo la invece new entry, Imma Papicchio. Sì. Imma Papicchio. Ciao Imma. Stai sudando perché tutti sudano in questo momento della, come dice Salvini, d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo. Grandi parole di saggezza. Beh, sarà una puntata ricca di improvvisazione. Ricca di improvvisazione. E quindi partiamo un attimo improvvisando, raccontando perché. Elisa, dici come mai? Perché? Allora, cos'è questo? Ma siamo questa è un'altra volta. Cos'hai? Niente. Oh, ragazzi, la vita è difficile. Dopo. Comunque, sono qui perché domani inaugura la settima mostra di Piccola Galleria. Oh. In cui c'è Imma Papicchio. Domani è un applauso. Domani ore 18, via Marsala 31D, grazie. Con il progetto Motelagond. Motelagond, in pugliese, che significa ora te lo racconto. Imma mi guarda e ride perché ovviamente cioè una cosa detta in dialetto, cos'è, foggiano? Ma come ti permetti? Pugliese. Detto da una veneta. Dialetto pugliese va. Ma spiegaci meglio, sì, esatto. Stiamo facendo da sole. Dialetto manfredoniano, foggiano, no, Lisa. E salutiamo Manfredonia. Salutiamo. Ciao. Salutiamo tutti Manfredonia. Ce lo puoi dire con l'accento giusto il titolo? Motelagond. Motelagond, senti com'è bello. Senti come suona bene, detto da te. E che cosa ci ha condato? Devo dirlo io? Sì. E, vabbè, praticamente affronta, cioè la Imma affronta, è tutto un progetto fotografico che affronta la tematica dell'amnesia infantile, che si ricollega però a una malattia che ha avuto sua nonna, che è l'Alzheimer. Quindi è tutto questo progetto fotografico e ovviamente nella vetrina ci sarà una foto che grande, che coprirà tutto lo spazio espositivo. Beh, tostino come argomento. Come mai, vabbè, non so con chi parlare. Io parlo con una delle due. Come mai è stato accostato il tema dell'Alzheimer, demenza anche senile, l'esperienza della nonna, a l'esperienza invece dell'amnesia infantile? Questo è un binomio particolare. Beh, accondagelo, scusa. Allora, stavo cercando un qualcosa che ricollegasse quella che è stata la mia esistenza alla sua, quindi è stato un po' un cerchio che si è chiuso perché era da un po' che lavoravo a questa tematica, e quindi un momento della mia vita dove anch'io non avevo memoria, o comunque un momento nel quale appunto non ricordo nulla. E quindi ho trovato questo momento che è stata l'amnesia infantile, che tra l'altro poi sono gli stessi anni in cui lei ha avuto la malattia, quindi c'è questo collegamento. E ho lavorato con delle immagini di archivio. Di archivio? In che senso di archivio? Della mia infanzia, quindi tutta la mia infanzia che non ricordo. L'ho un po' ritrovata in quelle immagini che in realtà ho sempre avuto un po' l'abitudine di guardare, però non con questa attenzione. E poi alla fine è venuto fuori che da queste immagini un po' un'infanzia collettiva, quindi l'infanzia che abbiamo avuto bene o male un po' tutti, cioè dei segni ricorrenti come le feste di compleanno, le foto che si fanno alle feste tipo Natale, insomma elementi caratterizzanti, il primo bagnetto, quindi è un libro che racconta la mia infanzia, però in realtà l'infanzia è un po' di tutti e tutte. Ho capito. E quando parli di archivio, cosa intendi proprio nello specifico? Cioè fotografie tue? Sì, mie, perché mia madre pazza aveva un archivio della mia infanzia allucinante. Okay. E quindi quanti anni hai? Anche io 25, quasi 26. Ok. Cucciolandia. Secondo me la io sono invecchiata da quando sono venuta l'ultima volta. Sono entrata in una nuova decade. Noi siamo auguri anni 80 qualcosa. 85, 86. Vabbè, comunque siamo qui siamo dopo, non lo contiamo neanche. Vicino al 2000. Eravamo sull'archivio 99. Della tua infanzia. Okay. Sì, quindi ho conservato un sacco di immagini, ma un po' di tutto, vestiti, avevo tutto, quindi ho potuto lavorare con tantissimi materiali, anche appunto tessili, e è venuto fuori questo libro. Ma la mia domanda è, scusa Cinzia, questo fatto dell'amnesia infantile è qualcosa che hai individuato come un tratto che caratterizza un po' l'infanzia di tutti, nel senso è un processo che caratterizza, o nello specifico studiando hai realizzato che è stato qualcosa di, insomma, sì, particolare, allora, della tua esperienza? C'è chi ricorda di più, chi di meno, però ad esempio, cioè, se ti chiedo qual è il primo ricordo che hai della tua vita, cioè cosa... Un compleanno della mia bisnonna. Al ristorante. Più o meno età? Lei è... La tua età? La mia età? 4 anni. Ok, oh, la tua? Tua? Ricordo. Io ricordo un giorno che andavo a... Il giorno prima elementare andavo a scuola accompagnata da mio padre in macchina, gli chiesi come funziona per mangiare? Uno dei primi sì. Subito problematiche concrete. Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi giusto età... così? Boh, 6 anni, più o meno, 6 anni. Tu? Amore, il mio primo ricordo si è dato tipo ieri. Non mi ricordo. Della tua infanzia. Della mia infanzia, cioè non... No, giuro, non mi viene in mente niente. Lisa? Cosa? Questo è nato proprio primo ricordo. No, magari. Primissimo ricordo, l'odore sgradevolissimo di tabacco addosso a mia zia che mi prendeva in braccio. Ah, quindi proprio quanti anni? Non lo so. Neonata. Questo secondo sarebbe stato meglio amnesia, dice. Sarebbe stato meglio rimuoverlo. Ma io mi ricordo che proprio stavo cercando di dormire. Quindi stavo proprio pensando, ma lasciami stare. Poverina, ciao zia. Ti voglio bene. Però in realtà, adesso che mi viene in mente, ho un ricordo che viene ancora prima. E anziché tediarvi con il racconto, anche se è simpatico, mi viene in mente che tendiamo a dimenticarci un sacco di cose che poi ci viene in mente solo se scaviamo. Sì, ma molto spesso sono influenzati dalle immagini o comunque da quello che ci viene raccontato. Infatti, insomma, gira anche tutto un po' su quello e sul fatto che più passa il tempo, in realtà, più avremo a disposizione meno immagini, meno racconti, magari anche per il cambio generazionale, certo, si stampa di meno, quindi probabilmente ci sarà più rischio di perdita anche di tutta quella che è la nostra infanzia. E quindi, insomma, nel frattempo c'è Chiara Pergola che ci scrive. Cosa ci scrive? Volevo dire la mia su questa trasmissione, ma non mi ricordo più un tubo. Chiara, il rientro da Salamone. Ma se vorremmo chiedere, ciao Chiara Pergola, ti salutiamo. Ma la tua è amnesia infantile oppure amnesia della maturità? Diciamo. La maturità. Come l'hai edulcorata? Comunque, se anche qualcun altro vuole raccontarci le sue amnesie, scrivendo a 333 18 0 9 4 9 4, noi le ascoltiamo, diventa un momento noi leggiamo, ne ascoltiamo. Ma quando parli di tessili, vestitini o altre cose, parliamo sempre di raccontarlo attraverso fotografie? No, mia madre ha proprio tenuto il primo vestitino, vestito del battesimo, vestito del primo compleanno. Okay. Stiamo parlando di un'accumulatrice. No, è che accumulatrice stellare di vestiari. Però tu dicevi, giustamente, le nuove generazioni, stampando meno, ricorderanno meno, però d'altra parte l'infanzia di adesso è documentatissima, filmata, sì, registrata. Però, cioè, quello che manca è più una questione di conservazione, cioè... Un archivio. Sì, molto banalmente cioè, vedo anche magari delle mie cugine che hanno avuto dei figli e quindi magari fanno tantissime foto, ma basta un cambio di telefono, non sanno più dove le hanno messe, hanno perso tutto, hanno in panico più totale. C'è questa mancanza proprio di prendersi cura delle immagini, anche perché si scatta molto di più e quindi si fa fatica a conservare, cioè manca una selezione delle immagini poi effettivamente da voler tenere, e si lascia andare, non si ha tempo e alla fine non si seleziona, certo. Un po' un casino. Ma giusto, questo è molto vero. Prima su un rullino tipo di cosa era, 24 foto, stavi lì, stavi 3 ore a scegliere e poi quella ti rimaneva per anni, quell'immagine. Oggi ne fai 85 dello stesso momento, non te ne piace manco una, non la stampi. Effettivamente noi che siamo un po' più age, io adesso che iniziano le vacanze ho questo ricordo vivido, quando arriva l'età, diciamo, dove sei un po' autonomo e vai in vacanza con gli amici, e fai la stampa del rullino delle vacanze, quell'emozione di quando si avvicina il giorno di andare a ritirare il rullino per rivedere le tue vacanze. Mamma mia. Quell'emozione lì, effettivamente, adesso subito boomer, momento nostalgia boomer, però erano quei 20 anni che non ci pensavo, di quell'ansia di voglio vedere le nostre vacanze. Beh, però è un po' una sensazione che si sta cercando di ritrovare, ma non a caso, Imma, tu ultimamente giri sempre con un usa e getta analogica. Oh. E lì c'era stata questa tesi che mi ha un po' questa ricerca. Però sì. Ima mi sta odiando perché ha detto io vengo. Invece non andava sottolineata questa cosa, perché senza no me ne sono accorta. Senza accorgersene più di tanto. Vabbè, allora Elisa, raccontaci un attimo come tu, che sei curatrice un po' anche talent scout di Ima. Talent scout non lo so, non si dice. La nostra Mara Maionchi dell'arte. Raccontaci un po' il percorso. Più orribile. Maionchi è un idolo assoluto. No, certo, però è una roba. Vabbè, ok. Raccontaci da un po' il percorso di Imma e come vi incontrate voi. Beh, ci siamo viste ieri per la prima volta. Ok. Per allestire. No, in realtà tramite. Che non scorderanno mai. Esatto, sì, tra l'altro. Vabbè. Tramite Lisa, perché loro due si conoscevano. Quindi sei tu la responsabile. Era da fare a te questa domanda. È colpa mia. Vabbè, poi lei mi ha mandato il suo sito, l'ho studiato e ho detto, vabbè, perché no? E niente. Ok, è nato così. Sì, esatto. È nato molto così. Questa, hai detto, è la settima inaugurazione, sì. Vuol dire che è la settima sotto la tua curatela? Sì. Ammazza, nell'arco di quanto tempo? Una al mese, da gennaio a luglio. Poi adesso, cioè anche ad agosto, ragazzi, perché qua non si molla. Non si molla un cazzo. Non si molla. Non si va in vacanza. No, sì, vado in vacanza. Cioè no, in realtà devo andare a lavorare da un'altra parte. Vai tranquilla. Devo andare a lavorare da un'altra parte per il mese di agosto. Però inizio agosto mettiamo un'altra. Per quei pochi rimasti inamovibili. Beh, tanto comunque è una vetrina che sta esterna, quindi anche se il bar chiude 2 settimane per andare in ferie, cioè comunque c'è la vetrina fuori, è brutto se non si lascia niente. Per quei poveri cristiani d'estate, almeno passano e dicono, ah, un miraggio. Un miraggio di vita, di socialità. Quindi tu nella mostra, nella piccola galleria, comparirai con uno scatto o più scatti? Come? È praticamente la copertina del libro. Uno scatto. Copertina del libro che è già stato pubblicato, deve essere pubblicato. Non è stato un libro che ho stampato appunto perché non è pubblicato ufficialmente, ecco. Non mi viene il termine. Cosa? Non è stato pubblicato. Quando lo fai un libro. È inedito. È tuo, è inedito. È mio, come se non l'avesse mai visto nessuno praticamente. Non è stato pubblicato. È un'amnesia nell'amnesia, certo. È una meta-amnesia questa cosa. Però magari invece vedrà la luce, arriverà alle stampe. Passiamo, dai, ma te lo faccio stampare io. Un pochino, ricordiamo. Va bene, Mara. Quanto tempo resta, Mara, questa mostra, la piccola galleria? È poco meno di un mese. Appunto per questa cosa di agosto, che è un mese un po' particolare, terminerà il 2 o il 3 di agosto. Vabbè, tutti all'inaugurazione. Domani ragazzi. Lo citeremo sicuramente nelle menzioni più tardi. 18:30, sì, vabbè 18:30, sì. Come si dice, sottolineiamolo adesso, visto che poi nelle menzioni non siamo mai laconici, come dire. No, credo sintetici. Sia il momento più confuso di tutta la. No, ma non vogliamo subito fare critiche a questo programma che ci è stato lasciato. Ma come? Totalmente in mano. Abbiamo carta bianca. Comunicavamo con lo sguardo riguardo chi chi ci ha lasciato il programma. Chi ci ha lasciato il programma? Tutto bene. Sì. Tra l'altro ce lo lascia Stefano che ci ha inoltrato, ecco, un audio, cioè, da Mia. Che non è questo. Che non è questo. Questa è la quota disturbo questo, che c'è in ogni trasmissione. Ma chissà dove sta andando questo all'aeroporto volo che c'è qua giù. Ogni volo che passa mi dico, ma chissà verso ma dove come fa a prendere l'aereo? Non sto capendo. Sono ma chi? Cioè, perché sentiamo l'aereo? Perché qua siamo in radio. C'è un, c'è un microfono. Ma c'è questa cosa che dovrebbe... perché sono forti. Sono molto forti. E poi ci piace non filtrare totalmente la vita esterna. Ah, voglia. Sentiamo cosa ci ha mandato il Damio. La mia. Cos'è? Che carino. Oh no. È ringiovanito. Amore. Beh, ma è suo figlio? Ma che cos'è? Il messaggio da Mia. Ah, cioè, è la figlia. È il bimbo di una delle della ufficiale co-conduttrice. Sì. Esatto, di siamo Coxa noi che perché noi siamo arrivate noi a fare. Non ci siamo mai conosciute, ma. No. In che senso? Ma... con me? No, io mi l'ho conosciuta. No, io e lei no. Non però vi siete mai conosciuti, mai perché crociate. Tu sei co-co-co-co. Poi dopo io tu hai preso il sopravvento alla regia. Coco, esatto. Poi come i coco contratti. Quindi questo salutiamo anche Mia, quindi. Salutiamo tanto Mia. Pensavo che fosse W Pasquini. Anch'io pensavo. Che no, stando lontano da Coxo Spaziale subisce un'involuzione istantanea del linguaggio. Va bene, è stato molto bello. Ma una cosa che ti vorrei chiedere, visto che sei la new queen della regia, ma un messaggio da Marco Roma? Ce l'abbiamo. No, perché certe tradizioni vanno mantenute. Ma assolutamente, guarda. Ci tenevano a interromperci, però... però. No, infatti eravamo proprio nel pieno di... di queste amnesie. Beh, però così per stiamo... Sento il vostro cuore battere dentro mio che fa bum bum bum bum. Sento questa stazione trasmettere musica e vi tocca il cuore come il mio cuore che fa così bum bum bum bum. Da Marco Roma, buongiorno. È sempre un'emozione, ciao Marco, non smettere Marco mai. Mamma mia, Marco Roma, è una cosa incredibile. Mi fa proprio venire un cuore di panno ogni volta. Lui non si dimentica mai a proposito di amnesie. Di amnesie. Vogliamo sapere tutti un piccolo dato tecnico, piccola parentesi, poi dopo torniamo. Ma lui manda messaggi ogni singolo giorno o ogni lunedì? Ogni trasmissione. Questo messaggio l'ha mandato sabato, quello prima venerdì, giovedì, mercoledì, no, tutti i giorni. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Però nei giorni, sto notando nei giorni feriali, festivi. No. I festivi. Latita. Beh, però si spinge fino al sabato comunque. Beh, effettivamente. C'è chi il sabato. Domenica? No. Alle 10:15. La domenica è sacra anche per Marco Roma. Comunque lo salutiamo, lo baciamo e lo abbracciamo. Ma torniamo un attimo a Imma Papicchio. Papicchio. Guarda. Vabbè, ci mancherebbe che non mi suggerisci un attimo. Imma Papicchio. E quindi diciamo, la tua ricerca si... è una tortura, sì. Si chiama Coxo Spaziale per questo. Proprio. E tua ricerca si sviluppa prevalentemente in ambito fotografico? Sì, ultimamente sull'archivio. Sull'archivio. Sull'archivio, sì. Puoi darci come inizia questa tua passione per... beh, perché avendo una mamma che conserva qualunque cosa. Sì, sicuramente c'è sempre stata un po' questa predisposizione. Poi in accademia, studiando in accademia, mi sono avvicinata a tutto questo. In realtà prima non l'avevo mai minimamente calcolato, devo dire la verità. Poi... con un corso in accademia appunto di gestione di archivi fotografici con quella che poi è stata la mia relatrice che si chiama Laura Gasparini, che salutiamo anche lei. Ciao Laura, Laura. Ciao Laura. E anche grazie a Vittoria Franzin, che è un'altra ragazza che ha frequentato l'accademia, insomma grazie a loro mi sono avvicinata molto all'archivio. Ora faccio quasi fatica a distaccarmi e ritornare sulla fotografia, che scatto io, ecco, che non scatto da altri. Beh, però, alla fine comunque anche il tuo lavoro attuale prevede una gestione di archivi cosa fotografici. Fai? Io faccio digitalizzazione del patrimonio culturale. Ah. Quindi sì, qua non si scherza. Madonna, siete persone veramente serie. Parla, cioè, parla di lei. Io sono qua che pasticcio con la regia. Stai andando benissimo. Io direi che questa 537esima puntata, proprio con il botto. Perfetto. Con il botto e con la birra. Ovviamente. No, è suddivisa. Perché voi venite qui e c'è, nel senso, io e date per scontato un po' questa cosa dell'Accademia di Belle Arti, che effettivamente è un ambiente a cui siamo avvezzi e conosciamo, però dateci un contesto. In che corso ti sei laureata? In che fotografia? Fotografia, ok, no, perché ci sono tante. No, io e Imma siamo state compagne di corso. Uso il passato perché lei si è laureata, io no. E brava, questo è un capitolo. Perché hai iniziato a fare la regia, quindi ti ha preso un po' di tempo. Sì, okay. È colpa della regia, è colpa di me. Ti ha preso veramente tantissimo. Noi ci siamo conosciute lì, quindi la formazione magistrale, possiamo definirla così anche se non è tutti gli effetti in università, è stata la stessa. Sei d'accordo? Certo. Amore a prima vista. Amore a prima vista. Quanto tempo fa? Quanto tempo? 2021. Nel 2021, ah, okay. Ormai 4 anni. E si è concluso, quindi da marzo scorso, cioè non questo marzo 2024. 4, sì. Ok, sì. Con Motelaccond. Con Motelaccond. E gliela raccontando. Questo era un present continuous. Era un present continuous del manfredoniano. Che io come si sa, dalla provincia di Treviso conosco benissimo. Dai, però si è migliorato. È bello, sì, quando dai. Bologna è proprio un crocevia. Ma che musica ci hai portato oggi, Lisa? Ma sai che non vi ho portato proprio non niente. Ci, portato, potremmo, ci toccherà cantare. Volevo dedicare a Imma Gigi D'Alessio, ma perché è uno dei suoi artisti preferiti. Dei nostri artisti preferiti. Cioè, è uno dei. Cioè, voi pensate che ci abbiamo unito l'amore e la passione per la fotografia? In realtà no. Abbiamo unito Gigi D'Alessio. È stato Gigi D'Alessio. Per Natale mi ha regalato il concerto di Gigi D'Alessio. Siamo andati a vederlo a Bologna. Davvero? Incredibile. Ah, ma quindi siete delle fan sì. serie? Io pensavo che ci fosse un momento di ironia. Ma tu non sai. No. La vedo troppo seria. È molto guardala. Seria. Pensavo che stesse scherzando. No, veramente. Veramente. Ho detto, guarda, io ti faccio questo regalo perché cioè, quando ci ricapita. No, infatti. Ci siamo sentiti. Della un nostra po'. Gioventù di andare a sentire Gigi D'Alessio. Abbiamo anche pianto. Per fortuna, ma. No, è stata, qual è la canzone che fa piangere di più tra tutte? Allora Annarera. Annarera, devo dire. Però quando è partito Un Nuovo Bacio, ragazzi. Sì, cioè hanno cantato volevo... solo, cioè solo noi abbiamo cantato lui Silenzio, perché c'è stata questa cosa emozionante. Ah, avete cantato sabato sera viene a cantare con me. E anche tu, anche tu, e anche tu. Dove vai? Dove, amore, se devo cantare Gigi D'Alessio non vengo. No, cantiamo tutto. Ok. Elisa vuole cantare Anna Pepe. Ma quello no, ma non è che voglio cantare Anna Pepe. Cosa vuoi cantare? Vuoi essere Anna Pepe. Venite al passaparola in via Serio. No, non voglio Vabbè, essere sì, Anna Pepe. Però quello è un posto meraviglioso. È meravigliosissimo, sì. No, devo dire che prima mi ha redarguito la Elisa Zanfa. Zanta. Ma perché io continuo a chiamare Zanta? Io continuo a chiamarla Zanfa, si vede che c'è qualcun altro nel mio cuore che si chiama Zanfa. Vabbè, ma Elisa importa. Zanta mi ha redarguito perché non conoscevo l'Anna Pepe. Elisa Zanfa. No. Dai, dai, è un trauma sto cognome perché tutti lo sbagliano e ha 5. Ma devi vedere il lettere. Mio, non so come l'hanno detto. Allora, giusto. Anna Pepe. Vabbè, potresti chiamarti Mamma Papì. Ma come Anna Pepe? Anna Pepe. Come chi è? Sono vagamente della Sardegna. Anna Papicchio. No, io no, a me è venuto fuori Pepe. Sono con però non la conosco. Ragazzi, facciamo così per par condicio. È una trapperina, una Betty. Ci fate sentire. Sia un pezzo di Gigi D'Alessio che un pezzo di Anna Pepe e poi dopo no, Elisa possiamo... Zanta no, mi chiamerei come nome da trapper Elitz. Bello veramente un numero ci ha mandato una canzone. Attenzione. Mamma mia, chi è? Fatecelo ascoltare. No, ma intanto parliamo. Voi parlate. Ho sbagliato tante volte. Mi sento un attenzione, perché qui comunque la Lisa le canzoni che vuoi cantare. La Lisa sta mostrando. No, volevo cantare. Dai, dai, dai. Io con te senza te la mia vita. Ok, cosa devo fare? No, dicevo cosa vuoi cantare. Non lo so, amo in realtà. Sì, Cinzia, deliziaci un po' tu intanto, che tu invece sei appassionata di karaoke, sei appassionata di musica. Tiziano Ferro? Nope. It's been a long time since you came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not living without you. Sì, mamma, ma tu sai cantare. Cioè, you taste like whiskey when you kiss me. Oh, I give anything again to be your baby doll. This time I'm not living without you. I swear to see you back down where you belong. In a corner of my bar where your eye gets on. Sit back down on a couch where we made love the first time. And you say to me this something, something about this place. I'm a New York woman, gonna run you down. Want your lipstick all over your face. Madonna! Ma scusa, ma come? Ma sai cantare? Sta diventando X Factor questo po'. Ma per me il karaoke è solo io che urlo e stono. Cioè, abbiamo Mara Maionchi. Ma Mara Maionchi che è la più suonata. Però scusami, ma questa voce, ma l'avevate già scoperta voi questa voce della Cinzia? Io sapevo che era bravissima a cantare. Mamma mia! Io lo sapevo. Ma qui The Voice! Chissà come sei se canti Anna Pepe. Prova. Ma non ce l'abbiamo Anna Pepe. Devo chiedere a chi a chi mette le basi. Simpaticissima. Ah, Manu Margari. Ah, ma è quella? E si gode la vita. Vabbè, quella sì, l'ho già sentita. Lei è Anna Pepe, cioè. Oh mamma, sabbia sotto la pelle, paparazzata, sembro Kylie Jenner. Ho preso il sole tutto il giorno, la faccia rossa, sembra un beauty blender. Da dove vengo? Sembra le Maldive, ce la fai solo se sei una believer. Like Weaver, con il sole nei capelli. Se d'estate sono molto più... No, se d'estate siamo tutti più belli. Se d'estate sono molto più baddy. Pure lui non sembra avere difetti. E per me va loco, come per la Coco. Vabbè, è ricchissima. Cioè, scusami, comunque la canzone che ci hanno mandato non funziona, quindi è per quello che dobbiamo continuare a cantare noi. Ma chi let's be interested in life. I'm on a right track, baby, I was born to survive. No matter breakwater, beach, show, orient me. I'm on the right track, baby, I was born this way. I'm on a right track, baby, I was born this way. Anche l'armonizzazione. Mamma mia, ragazzi, fate il controcanto. Su Lady Gaga sono già più ferrata. Amore, Lady Gaga totale. La mia vita. Lady Gaga sono già più ferrata. Devo dire, molto bene. Allora, intanto posso fare un momento di pubblicità in questo, ma certo. Spezziamo un attimo questo momento di karaoke. Allora, volevo pubblicizzare, intanto che ricordiamo la piccola galleria che inaugura domani, che in questi giorni al Cinema Roma d'Essai. Bello, ci abitavo vicino. Via Fondazza. Sì. Meraviglioso. È in onda, non si può dire al cinema in onda. Comunque, fino a mercoledì, domani è martedì, ancora oggi, domani è mercoledì, cioè sullo schermo. Viene proiettato questo film meraviglioso che si chiama L'oro del Reno. Non è meraviglioso solo perché ci sono io in questo film, che ovviamente, se non si era capito, di arte contemporanea so meno dei carciofi. Vabbè, io meno. Nel senso, io che mi occupo di altri campi di arte, c'è questo film meraviglioso in cui ho avuto la fortuna di fare una piccolissima parte, ma non va visto perché ci sono io, perché veramente attraverso lo schermo è opera prima di un regista molto bravo della nostra città, che si chiama Lorenzo Pullega, che se ci sta ascoltando saluto, se non ci sta ascoltando lo mandiamo domani, male per lui perché glielo ho detto che eravamo in radio, che l'avremmo domani facciamo ascoltare la replica. Comunque volevo dire, non perdetevi questo film molto bello, che è la sua opera prima, primo lungometraggio, che parla totalmente del nostro territorio. Si chiama L'oro del Reno, perché c'è inizia con un misunderstanding molto simpatico sull'oro del Reno di Wagner e il Reno, nostro fiume, e attraversa tanti episodi legati alla nostra regione, molto onirico, mi spingerei a dire di impronta felliniana. Oh, addirittura. Beh sì, chiaramente 4.0 nel senso al giorno d'oggi, però ha delle immagini molto belle che secondo me vale la pena di andare a vedere, perché è un film coraggioso per un diciamo esordiente nel mondo cinematografico, e racconta un po' i colori della nostra terra. Noi siamo abituati a vedere al cinema, adesso ultimamente no, si vede un po' di più della nostra terra, però c'è sempre tanta Roma, c'è sempre tanto un po' di Marco Roma un po' di Castelli, a Giogiaria. Quindi, titolo del film? L'oro del Reno. Ok. Quando, dove, come, perché è dal 3 luglio, però ancora fino a mercoledì, che voi mi aiutate, è il 9 mercoledì, certo. No, è diverso oggi da quello dell'anno scorso, esatto. Mercoledì 9 luglio rimane al cinema Roma De Sé in via Fondazza. Gli orari adesso non li so, perché ci saranno grazie che ho imparato le battute cinema della mia parte, se dovevo imparare anche. Allora parli, tu hai detto che passavi dicendo ciao. No, certo, passo, dico ciao. Sono, tra l'altro, molto mi ha fatto fare una parte molto divertente. Sono scazzata e ho la cingomma in bocca. Adoro, amo totale. È affamata. Tipo la cassiera di ieri. No, che stasera sono affamata. È affamata. Io la sto guardando negli occhi, e ci sono degli hamburger disegnati al posto delle pupille. Esatto. Vabbè, comunque vi consiglio di andare a vedere questa chicca, che racconta un po' della nostra città. Ci sono, cioè, praticamente se siete di Bologna, qualcuno del cast lo conoscete, se non sono io e qualcun altro, che c'è una quantità di artisti del territorio. Lorenzo Pullega, a cui faccio un applauso anche, perché veramente ha dato tanto spazio ai talenti della nostra città, che sono infiniti, e quando arrivano i set da Roma si portano il loro carrozzone da Roma. Dopo però la nostra Mara Maionchi, Elisa Zanta, sempre sotto controllo. Cosa non mi chiamava Annalisa Tisura, dopo ne parliamo. Aspetta, non ti chiami Elisa? Sì, ma mi chiama Mara Maionchi. Ah, okay, ma perché la Talent Scout? Talent Scout è un'istituzione. Va bene, me la collo. Io approfitterei di questo momento di pubblicità per far partire effettivamente la pubblicità. Ah, sì, quella alle 8:30. No! Coxospaziale. Coxospaziale. Siamo una pubblicità molto breve, tutto molto Lisa Mignani, però non ci avvisi. Cioè, guardate con uno sguardo tipo la Lisa, ma io volevo far origliare un po' i vostri discorsi, che sono così interessanti, perché sono tutti focalizzati intorno al karaoke. Nel frattempo c'è Chiara che ci scrive, sì. C'è anche Filippo Pagotto nel film, comunque mi avete convinto, lo vado a vedere. Brava mentre Chiara, Stefano, brava Chiara, ciao Chiara, ti vogliamo Chiara bene. Mentre Stefano dice grande Cinzia, cuore. Oh wow, ciao Stefano, di questo stacchetto meraviglioso che ci ha fatto. Tra l'altro non ho neanche capito, non ho riconosciuto la canzone io nella mia ignoranza. La prima? Totale. You and I di Lady Gaga. Ah, ma proprio tu sei Lady Gaga. Sto per finire di preparare Abracadabra. Abracadabra, abracadabra. Vabbè, io ho Miley Cyrus nel cuore. Amore. Stai finendo di preparare, nel senso che tu la settimana la passi a studiare il pezzo che poi vai a fare il karaoke? Il karaoke è il punto d'inizio dello studio di un pezzo che poi sviluppi? Dipende, un pochino, perché ci sono state tutto il periodo pre-karaoke che io cantavo da sola a casa mia, giù in Sardegna, una casetta tutta nascosta in campagna. E perché non ci inviti? Perché no, adesso perché non ci inviti? Lo farò. Io ho ferie per 2 settimane ad agosto. Chiudo qua. Benissimo. Vabbè, farò in modo che la blocco per un po' di tempo. La blocco e la sblocco. E niente, no, lì ho preparato tantissime canzoni. Poi adesso invece che le ho tutte quante performate in pubblico e le miglioro sempre tutte le volte che le canto e ricanto, poi ne aggiungo altre. Quindi Abracadabra, che è più recente, la questa qua è una serie, eh. Wow. Cioè, ma tu sei una star. Io sei una pop vivo star. Per cantare. A Star is Born. A Star is Born. E sta facendo i scarpi a Lady Gaga. E facciamo something. Ah, però. Allora, Lisa, ti sei appena, hai appena debuttato solista alla regia. No, passo no, no, no. Era per dare il via a Cinzia, che sicuramente la conosci. Io lì posso fare la parte dell'uomo, eh. Devo dire che sono ferratissimo. Stefano intanto ci dice: dobbiamo ancora andare a fare il karaoke insieme. Assolutamente sì. Però possiamo, effettivamente, Stefano, è vero. Quanto ti stiamo mancando? Tantissimo. Mi mancaste. Dove sei? Un po' di tempo effettivamente fa. Mi manca un po' l'avvoltoio disturbatore. È vero, Lisa, effettivamente tu non ci dai abbastanza fastidio, perché dovresti comparire sulla porta col gelato e parlare all'orecchio dell'ospite. Sì, ma puoi anche far partire dei jingle fastidiosi nel mezzo di un discorso. Troppa confidenza. Vogliamo fare le menzioni col tutum. Ok. Ma sì, è prestino. È un po' presto. No, se è troppo presto, io prima ho sentito così di a gamba tesa una roba che hanno detto le ragazze. E poi hai fatto partire la pubblicità. Che stavate a dire? Speedy Bob, no, cos'è? Speedy Bob, non riesco a dire. Speedy Boppy, Forza Napoli. Ah, ok. Questo è un nuovo trend estivo. Speedy Boppy, è troppo difficile. Speedy Boppy. No, è Speedy Boppy. Speedy Boppy, Forza Napoli. Ma cosa, tipo Fanta Sanremo? Ah, no, è tipo, hai presente, ci sono ste su TikTok, io non, vabbè, su Instagram. Ok, guardami in faccia. Questa è che siamo anziani. No, anch'io non ho TikTok, ma neanche io ho TikTok. Ah, ok, no, ce l'abbiamo, ma per fare così cose che non come tutti quelli che hanno TikTok, dicevi, scusa? No, vabbè, è tipo una roba che è tipo fatta con l'intelligenza artificiale, dove fanno queste interviste in cui finiscono tutte dicendo Speedy Boppy, Forza Napoli, scappano via e si tuffano da qualche parte. Ah, però tutte fatte con l'intelligenza di dire Speedy Boppy e poi ci andiamo. Tu riesci a dire io Speedy Boppy? Tesoro, Speedy, ma io ho studiato teatro 15 anni per poter dire Speedy Boppy. Solo per questo valeva la forma. Ce l'abbiamo, abbiamo Elisa col gelato sulla porta. Bisognerebbe fare una foto, una foto. Hai fatto la foto? Anzi, mi metto addirittura nella saletta ospiti. Addirittura fuori. Addirittura fuori, come allora, fa il nostro caro Stefano, che intanto ci dice che gli manchiamo tantissimo. Gli manchiamo tantissimo. Sì. Anche tu. È a Misano Adriatico. Non a Jesolo, amore. Sei al Muccio Maccio? No, non è al Muccio Maccio. A rilassarsi molto a Misano Adriatico. A lavorare sempre. Si è perso le dita. Dov'è Misano Adriatico? Sempre. Dove sta? Bello, mi sa che non lo so. Ragazzi, secondo me riescono anche a prendere le nostre frequenze a Misano Adriatico. Davvero, sappiamo Riviera Romagnola. Sappiamo dove siete. Scusa, amore, io non so la geografia. Perché voi siete venete. No, in quanto tale non siamo ignoranti, questo non sapete la geografia della nostra regione. Io magari sono meno ferrata. Mi è uscita veramente cattiva. Io sono un po' campanilista sulla religione Emilia Romagna. Questo inizia a salire la temperatura dentro il nostro bunkerino. Ma accendetevi il ventilatore, perché è spento? No, perché dopo ci abbiamo già gli aerei, se parte il ventilatore. Ma minchia, cioè tra gli aerei, il ventilatore, le cicale. Non hai attaccato di radiofonia. Lo vedo spento. Ma quello fa ancora più niente. Più casino. Non sembra di essere un reattore, quello del CNR. No, no, lo accendiamo. Cinzia lo vuole acceso. Cinzia lo vuole acceso. Lo vuole acceso. Hai fatto sarda come piace a me. Si viene fuori il sardo quando diventa un po' autoritaria la Cinzia. Io? Autoritaria. Accendi. Ma non arriva qui, o sì? Chi lo sa? Io sento più rumore che il fresco. Sì, anch'io. Però è tutta questione mentale. Giusto. Abbiamo fresco. Si sta benissimo. Abbiamo un grande fresco. E adesso tutti quanti. Speedy Boppy comunque. Speedy Boppy. Speedy Boppy, no? Speedy Boppy. Forza Napoli. Vedi che è difficile. Speedy Boppy. Forza Napoli. Bisogna dire anche Forza Napoli. Io scusate. Forza Napoli. Che qui corrono. Io devo cercarla sta cosa. Amore, guarda, poi te la mostra lei. È molto divertente. È una challenge. È una challenge. Ma si è presente tra l'alleno. Come aspetta. Zun zun zun zun saur. Eh? Vabbè, però qua, cioè, allora. Scusate, allora, non fateci altre domande, potreste scoprire cose. Ballerina cappuccina, no? Ballerina cappuccina, tralallero, tralallà. No, e la allora, moglie. La prossima volta che invitiamo l'Elisa Zanta, e ho capito che si chiama Zanta, le si fa firmare un contratto in cui non può nominare tutta una serie di robe che ci fanno automaticamente sentire praticamente dei Tutankhamon. Ma abbiamo due anni di differenza. Scusa, io nel 99 ballavo Jennifer Lopez. Io nel 29 anch'io ballavo Jennifer Lopez. Ma eri appena nata nel 99. Lei ha 29, quindi abbiamo due anni di differenza. Certo. Vabbè, scusate, in realtà anch'io sono una boomer, io imparo da sti artisti piccoli, ste robe. Sei del 99, ho capito, o è lei del 99? Lei del 99, io sono del 96. 96, quindi hai 10 anni meno di me, ok, va bene. Vabbè, dai, amo, certo, tali, coetanee. Ma proprio un cazzo da dire stasera, eh? No, effettivamente, assolutamente no, era per quello che a un certo punto io ho detto, andiamo alle menzioni, perché se non ci vogliono raccontare cosa, un po' di ma più. Se vuoi ti racconta, dimmi tutto, ti racconto. Io vorrei raccontare, siete qui in vest di gallerista, di curatrice della piccola galleria, e raccontaci un pochino di più progetti. Ma l'ho già raccontata l'altra puntata, la numero non so quale. No, scherzo. Quante puntate fa? Era sempre la 537. A febbraio. È da febbraio. È il giorno della marmotta. Ogni puntata è esattamente la stessa. Beh sì, certo, ne ho fatto altre 5 mostre, ragazzi. Un esaurimento, no, non è vero. Che cosa ti costa fare una mostra? Curare la vita, no, scherzo. Ok, a parte la vita. Cioè, in che senso cosa vi costa? Economicamente? Ma, ovviamente, se vuoi trattare quell'argomento, sì, ma anche no. Ok, no, il perché tuo impegno fisico-mentale? Ma, cioè, tra la ricerca, cioè, comunque. Cioè, io facendo una mostra al mese, che in realtà l'ho deciso io, comunque, cioè, fai conto che 2 mesi prima, cioè, nel senso, se la mostra è a gennaio, oltre a sentire l'artista di gennaio, inizio già a sentire quello di febbraio. Quindi è da capire, da organizzarsi con l'artista. Poi, comunque, io scrivo anche dei testi da mettere lì al bar, là vicino. Mm-hmm. E quindi comunque c'è l'impegno del testo. Poi vabbè, grazie, lo citerò sempre, Marco Casella, che mi ha fatto il template delle grafiche. Comunque devo fare anche la grafica, gestire i social, tutte queste cose qua. Quindi più o meno, cioè, gran parte del tempo è dedicato a questo. Anche appunto poi durante sia l'inaugurazione che anche per fare l'installation view, quindi di giorno le foto, che quasi sempre è stata Lisa, se no Marco Erpete. Comunque poi c'è la selezione delle foto, decidere il giorno, cioè tutto il piano editoriale per quando pubblicare. Ok, quando parli di bar, insomma, per chi non ha idea di sì, cosa. Sì, perché la vetrina è attaccata, cioè proprio è proprio attaccata al bar Rubik in via Marsala, quindi è proprio di proprietà del bar Rubik, okay. La vetrina di Alessio Schiazza. Okay. Ciao Alessio. Hai detto 31D barra D, vicino al fioraio. Mm-hmm, ho capito. Ha detto una cosa, gallery view, cos'è che hai detto? Installation view. Che cos'è questa parola? Installation view sono le foto che vengono fatte proprio senza gente, senza nessuno, alla mostra. Cioè, quindi tipo spazio completamente spazio vuoto. Spazio siderale. Sì, spazio completamente vuoto in cui ci sono le opere e vengono fatte queste foto qui. Cioè come documentazione, come archivio. Tu immagina scattare le foto in via Marsala. Sì, infatti stavo cercando di immaginarmi. È molto impegnativo. Marsala come spazio siderale, forse alle 4 di mattina. Sì. No, certo. No, beh, no. Sì, alla mattina sicuro, perché comunque c'è poca, cioè c'è meno gente, comunque gran parte della gente è seduta nei tavoli, boh. Vabbè. Dentro i tavoli. Dentro i tavoli. Però comunque sì, la mattina è gestibile. Poi infatti alla sera, quando facciamo le foto dell'evento, cioè comunque a me piaceva il fatto che si vedono comunque le sagome delle persone che sono presenti, quindi cioè si vede in secondo piano l'opera e poi c'è tutta la gente, un po' come tipo momento di festa dell'opening e poi niente, poi parte la serietà. Ok. E poi parte la serietà. Installation View. Non riesco a immaginarmela tanto, Elisa, zanta in una veste seria. Arriva sempre qua tutta... Amore, ma io sono serissima. Sono una nazista in realtà. No, dai, nel senso che sono... Molto seria, molto precisa, molto organizzata e soprattutto pretende molto. È isterica. Molto. Beh, isterica, cioè. Amo, sì, se lavori con me sono isterica. Ok, le menzioni? Va bene, però almeno siamo riusciti, ogni puntata riusciamo a scoprire qualcosina di più dell'Elisa Zanta. Vai, al angolo della menzione è mezz'ora che lo chiamo e ovviamente nel momento in cui è arrivato non siamo assolutamente pronti. Comincio io prego, intanto prego. Con martedì 8 luglio, l'abbiamo detto per tutta questa sera perché non avevamo nient'altro da dire. Domani, martedì 8 luglio, ore 18, la piccola galleria, c'è l'inaugurazione della personale Motte Lacconde di Mapapicchio a cura di Elisa Zanta. Tutto questo, la piccola galleria in via Marsala 31D. A Bologna. A Foggia. A Manfredonia. Vedi che parla poco, ma... Sempre domani alle 6, quindi scegliete, dovete decidere. Best Before, Street Art Against a Rancid Future, fotografie di Marta Cooper, cibo, Claudia... Vabbè, penso non si legga. Z-Painting, specie di algoritmo scritto. Non ho ben capito questa, perché poi si passa al live painting cibo ore 19:30. Dove? A cura di Sara Maira, magazzino Art Gaze, Bonobo Labo, via Testone 5 di Bologna. Questa è una menzione. Che è un po' come sbiribiribiribiribum. Sì, ci siamo persi. Dove non si sa. Via Testone 5D. Sì, ma questo, secondo me... Allora, abbiamo del dibattito sulle menzioni. Passiamo a mercoledì 9 luglio, ore 18, sperando di dirimere più in fretta la faccenda. Nell'abito di Closer, a cura di Adiacenze, nello spazio dell'Esprit Nouveau, quindi zona fiera, se non mi sbaglio. Esatto. Correggetemi. Piazza della Costituzione. Brava. Anche proprio toponomastica, fortunata. Bravissima, Elisa. Sei a 360, guarda, pazzesca. Eh? Out There, estratti dal nuovo film documentario di Zimmer Fry, girato in 16 mm, con Anna De Manicor. Regina. Allora, bravissime. Voi date gli epiteti. Vai. Massimo Carozzi. Suono. Ivano Lollo. Cameraman e fotografo. Luca Pignatti. Shadow. Che è shadow? Ah. Ombre, no. Perdonami, Luca shadow. Pignatti, perdonami se sei all'ascolto. Dissacrante. E Mirko Santi. Fondazione On Movies. Beh, queste. Wow. Alle ore 18:30, selezione di ascolti di Massimo Carozzi. Cos'era? Era anche un film, le fa tutte veramente, rumorista, toponomasta. Faccio tutto. Vai. Giovedì 10 luglio alle 18:30, talk con Martina Angelotti, co-direttrice di Post Colonia Festival di Architetture e Immaginari in Transizione. Punto e basta. Giusto. Tutto questo credo che sia sempre all'Esprit Nouveau. Quando non viene specificato, quando non viene specificata la location. Ho sbagliato. Non è vero. Non hai sbagliato. Show must go on. È il delirio, è il momento delirio. Butta ma dentro perché, tutto. Adesso parte perché? Di nuovo. Perché io prima ho aperto le menzioni, ne avevo soltanto tre, per quello mi sono fermata. No, allora. Il nostro Deus Ex Machina, W. Pasquini, disse che nel momento in cui non vediamo più la location, siamo sempre all'Esprit Nouveau, quindi noi riportiamo. Vabbè, la parola del W. Posso mettere una menzione stacco adesso? Vai, stacco. La possiamo mettere, andate voi avanti. Sabato 12 luglio, ore 18. No, aspetta, c'è anche venerdì. Ah no, ve lo dico dopo. Questo adesso... L'angolo della menzione. Siamo già nel delirio, abbi pazienza. Mi scusate. Allora, sabato 12 luglio, ore 18 fino alle 20, Crochet Club, laboratorio condiviso a cura di collettivo Rosole o Rosole, alle 18:30, opening della mostra Disco Drama, La Notte Negoziata. Disco di Orama. Disco di Ora. E io cosa ho detto? Drama. Ma va bene, va bene. Io penso solo al teatro. Vai, quindi di Russa, giusto. La notte negoziata di studio DFC a cura di Davide Fabio Colaci in collaborazione con Giulia Terra Lavoro. Qui il programma va avanti, quindi dillo alle ore 20, spazi, racconti, relazioni, 1-4 chiacchiere con Davide Fabio Colaci, talk, puntata speciale del Fuori Sedia Podcast, nostre ospiti alla puntata 537, secondo me sempre la 537. E la prossima sarà la 537. La scala infinita, non scendiamo e non saliamo. Alle 21.30 invece che succede, Giulia? DJ set. Wow. Cosa dice? Oddio. Disastro. Con più S bolognesi del possibile. Mm-hmm. Neo rave. Mamma adoro, mia. Adoro, amo, noi là. Siamo nel futuro. Neo rave a cura di Fuori Sedia Podcast. Sempre. Bello. Dove? Padiglione Sprinuvo, Piazza della Costituzione 11. Grazie, ce l'abbiamo fatta. Torniamo al venerdì, che volevi dirci il venerdì? Volevo dire venerdì c'è anche la mostra di Satian Rizzo a Gelateria Sogni di Ghiaccio, parte di Family Matter, l'ultimo appuntamento della prima parte, alle ore 19. Dove? Alle ore 19. Indirizzo? La via? Via Tanari Vecchia. Via Tanari Vecchia. Il numero via... non importa, non perché importa, basta tanto lì. Non c'è... È cortissima. Ti metto anche la menzione stacco. Mamma mia. A gelateria, raga, birre a 2 euro. Ma domanda su gelateria, visto che anche tu sei qua, vanno avanti tutta l'estate? No, funziona questa come... non vorrei dire una cavolata, però teoricamente questa è l'ultima, poi andiamo tutti in vacanze e poi si riprende. Quando? Quindi questa di venerdì. Sì, dico, poi si riprende, quindi a settembre. Stacco agosto. Sì, agosto. Cioè, basta arte, basta cultura. No. Questo mondo ha già troppo acculturato. Lo vediamo tutti i giorni, lo leggiamo sui telegiornali. No, veramente. Non ne possiamo veramente più di tutta questa cultura, empatia, sensibilità. Oh, e ma infatti io non vedo l'ora di andare anche in vacanza, non pensare più a niente, invece no. Dove vai in vacanza? Non vado in vacanza. Tu stai qua, devi fare... Devo lavorare. Devi lavorare, devi mettere su coxo spaziale. Sì, mentre qualcun altro va a Misano Adriatico. E voi quando è che andate in vacanza? Adesso è ma no, questo coxo spaziale, dico. Mai. Coxo spaziale non va mai in vacanza. Solo chiediamo in diretta a W Pasquini. Stefano, quando chiude? Mandaci notizie da Misano. Mandaci le notizie. Ad agosto aggiornaci. Qua, siamo fuori. Mi sa che agosto Misano News. Misano News. Ah, dai, allora, intanto che abbiamo 3 minuti. 3 minuti. Volevo andare su un territorio un po' serio, fare, per quanto mi riguarda, il mio ambito sempre teatro, visto che ho già ribadito più volte, fare le congratulazioni e tanti tanti auguri alla carissima Elena Di Gioia, che è stata nominata nuova direttrice artistica di ERT, Teatro Nazionale di Bologna, e siamo tutti molto contenti. Siamo perché tutti felicissimi, devo dire cosa. Che è una persona veramente in gamba alla guida del nostro teatro, quindi la salutiamo. La salutiamo. Ciao Elena. In bocca al lupo. E tanta merda, come si dice, esatto, dalle nostre parti per questa nuova tu dovresti avventura. Conoscere mia sorella, dovrei... che è stata la settimana scorsa qui. E lei è drammaturga. Lei è come si chiama? Francesca. Niemi. Esatto. E di cosa si occupa? Drammaturgia comica, drammatica, contemporanea. Contemporanea. Allora proprio mia amica. Lei ha studiato alla Paolo Grassi. Ha studiato Paolo Grassi. Very, very nice. Dove vive? Adesso a Milano, ma tra poco a Bologna. Ecco, abbiamo bisogno di gente che arrivi qua. La chiamiamo, la inglobiamo dentro coxo spaziale. Lentamente, così. Spostiamo questa trasmissione un po' più sul teatro. Verso il teatro, scusate. Che quest'arte contemporanea io posso studiare. Guarda, no, mi sono rotta le balle io che ci sto dentro, no. Però. No, non è vero, pensavo assolutamente. Pensavo a Ramaionchi qua. Pensavo a no, io me la sono anche sposata, l'arte in casa ce l'ho, Ciao Alison, salutiamola Alison, che è a Milano, non la vedo mai, forse la vedete voi curatori più di me, quella ragazza lì, quella ragazza matura che ogni tanto transita da casa mia. Ok. Viva l'arte contemporanea. Con che cosa possiamo salutarci? Con un pezzo cantato dalla Cinzia. Come si dice, in omaggio, non mi vengono più le parole, fa troppo caldo. Ho litigato con mia moglie, perché... Ci puoi fare un pezzo di Gigi D'Alessio? Gigi D'Alessio, non ci posso arrivare a tutto ciò. In onore della mia... Puoi farmi un pezzo di Marco Mengoni? Oh mamma. Ah, nel frattempo Stefano ci dice chiuda ad agosto. Chiude sì, ad agosto, letto. Va bene. Allora anche... sono le ultime settimane qua, ragazzi. Anche Coxo Spaziale va in a Misano Adriatico. Amisa, o Gatteo a Mare forse preferisce Coxo Spaziale, chissà, chissà. Io vi ascolterei anche dalle vacanze, ma se non andate in onda call me by name, only baby, the more that you keep, the less that I need, everyone say I look happy when it is right, I know that you're wrong for me. God, I wish we never met on the day I leave. I put you down to your knees. God, I miss the misery of love's company. It's no your fault, I ruin everything. And it's no your fault, I ruin what you need, baby. And just like you can fly down hell with me, I'm everything to say what you be. La la la la, la la la. I'm everything to say what you be. La la la. Ma ragazzi, qua veramente io a cappella! A cappella! A cappella! Attenzione! Una puntata di grandi record! A cappella! Track, baby, I was born this way. No matter gas, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track. Baby, I was born to survive. Baby, I was born this way. Na na na na na. Baby, I was born this way. Born this way. Baby, the way. Baby, I was born, I'm on the right track. Baby, I was born this way. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. E nel frattempo salutiamo e ringraziamo le nostre ospiti. Ringraziamo Cinzia, ringraziamo Giulia, ringraziamo Chiara, ringraziamo Stefano, ringraziamo tutti. E noi vi salutiamo, vi aspettiamo. Ma soprattutto Lisa! Lisa Mignemi, energia, fuori strada! By yourself. Oh, hai scelto la più facile, devo dire. Bravissima Lisa, ci sentiamo, ci vediamo, ci riascoltiamo la prossima settimana. Recuperate la puntata online, mi raccomando, domani. E noi vi salutiamo. Vi salutiamo con questo basso, basso livello. Con questo basso. Forza, forza. Noto il dedo.